Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia e i temi di questa giornata economico-finanziaria. Beh, le perquisizioni in Mediobanca, ma anche e soprattutto le perquisizioni per quello che riguarda il Monte dei Paschi, perquisita circa un'ora e mezza fa, come ricordavano anche i nostri GR, anche l'abitazione e l'ufficio senese dell'ex presidente della banca del Monte dei Paschi, Giuseppe Mussari, che attualmente è presidente dell'ABI, quindi dell'Associazione delle Banche Italiane. Ancora la Procura della Repubblica di Siena ha ordinato una serie molto estesa di perquisizioni sia negli uffici di credito che nelle abitazioni di alcuni dirigenti della banca. L'indagine riguarderebbe presunti reati di aggiotaggio e ostacolo agli organi di vigilanza in merito all'operazione che portò il Monte dei Paschi ad acquisire Antonveneta. Antonveneta, va detto, è una banca che così, chi l'ha toccata si è fatto male. Pensiamo all'operazione dei furbetti del quartierino che costò poi la sedia al governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio e poi in questo caso anche al Monte dei Paschi, tra l'altro il titolo sospeso per eccesso di ribasso. Il titolo in questo momento perde l'8,05%. C'è un altro titolo oggi sospeso per eccesso di ribasso, si chiama Mediaset. La situazione tra virgolette più normale, ossia non è piaciuta la trimestrale, non è piaciuta parecchio, nel senso che il titolo sospeso in mattinata poi riammesso adesso perde il 12,70%. Poi c'è una pattuglia dei titoli bancari che va male: Popolare di Milano -6%, Mediobanca -6%, Unicredit -5,90%, Popolare Emilia Romagna -5,20%, Ubibanca -3,90%, Intesa San Paolo -3,60%, Banco Popolare -3,5%. Tensioni e preoccupazioni sulla Spagna, ma anche sulla Grecia, riportano e fanno schizzare lo spread, anche quello italiano, a una quota mai vista da gennaio, 430 punti, per cui ampiamente sopra i 400 punti. Schizzano anche i CDS, ossia i credit default swaps, i premi che si pagano per assicurarsi sul rischio fallimento Spagna, hanno toccato quota 512. Qui c'è il problema della terza maggior banca spagnola, si chiama Bankia, che dovrà essere con ogni probabilità salvata dallo Stato spagnolo. Già stasera il governo spagnolo potrebbe infatti nazionalizzare di fatto Bankia, comprandone il 45% del capitale. Questo lo scrive il quotidiano spagnolo ABC, che dice appunto il governo spagnolo si prepara alla conversione in capitale dei 4 miliardi e mezzo di euro iniettati attraverso il fondo FROB nelle 7 casse del gruppo BFA, e quindi sostanzialmente questo porta ad immaginare una nazionalizzazione della banca stessa, che ripeto è la terza banca spagnola. Poi preoccupazioni sulla Grecia, ma insomma il dato di oggi, al di là della borsa italiana che in questo momento perde l'1,60%, Parigi -0,70%, Londra -1,14%, l'America perde lo 0,58% e l'euro è sotto quota 1,30-1,29. Il dato di oggi è la conferma di un'Europa, di due Europe, una che è quella tedesca, l'altra che è quella degli altri, se mi permettete la battuta. Perché? Perché la Germania oggi ha registrato un nuovo record nelle esportazioni nel mese di marzo, ha esportato beni e servizi per quasi 99 miliardi di euro, importato per 81 miliardi, e quindi sono aumentate le esportazioni più 2,6 e l'export ha fatto più 0,7, ma il saldo commerciale, cioè la differenza tra quanto esporti e quanto importi, ha troccato un nuovo record a 17 miliardi e mezzo di attivo commerciale per la Germania. Come se non bastasse, la Germania oggi ha collocato sul mercato anche titoli di Stato a 5 anni, BTP a 5 anni. I rendimenti, cioè quello che ha dovuto pagare la Germania per trovare dei suoi compratori, è ai minimi storici. Il rendimento è lo 0,56%, e anche i Bund a 10 anni hanno toccato un minimo storico nei rendimenti e quindi la Germania praticamente paga quasi zero per trovare compratori per il suo debito, mentre noi con lo spread a 4,30 siamo ampiamente sopra i 5, siamo sui 6 punti percentuali, insomma se lo rendimento è 0,56 a spanne siamo vicini ai 6 punti percentuali, un po' di meno in realtà, e anche il BTP tedesco, il Bund tedesco a 30 anni rende il 2,24% lordo, anche qui ai minimi da sempre per quello che riguarda il debito tedesco. Lo spread italiano appunto supera i 430 punti, del rischio Spagna abbiamo detto, non solo la Spagna, c'è anche la Grecia. Dice infatti Wolfgang Schäuble, il ministro delle finanze tedesco, sarebbe catastrofico se la Grecia dovesse rinegoziare il pacchetto di aiuti. Il ministro agli esteri tedesco, Guido Westerwelle, ha detto: attenzione, gli ultimi sviluppi in Grecia sono molto preoccupanti. Il destino del paese nell'euro è nelle mani della Grecia stessa. La Commissione europea invita a non fare speculazioni su una Grecia fuori dall'euro, ma ricordo che due giorni fa il colosso bancario Citigroup la valutava come possibilità tra il 50 e il 75% che la Grecia sarebbe uscita dall'euro, e sempre la Commissione europea ha fatto sapere però che la tranche che deve versare la Grecia di 5 miliardi e 2 sarà interamente versata. È già stato approvato il versamento della tranche dall'Eurogruppo, e quindi un continente diviso in due, ripeto, da una parte la Germania e qualche stato simile come dinamica economica alla Germania, dall'altra gli altri paesi, e di nuovo Grecia e Spagna nell'occhio dei riflettori, con conseguenze, come abbiamo detto, anche sull'Italia. 349-238-6666 per i vostri sms, anche di questo parleremo chiaramente della vicenda Monte dei Paschi e delle tensioni post-elettorali in Italia. C'è la richiesta che arriva da PDL ma è anche dal PD al governo di sostanzialmente andare alla fase 2, ma la risposta un po' corretta poi ieri la faremo ascoltare nella seconda ora del programma di Mario Monti, quando ha detto: attenzione, la situazione economica italiana non può essere attribuita all'attuale governo, ma si prendono le responsabilità i politici in sostanza che hanno governato negli anni passati. Ora, noi abbiamo criticato nel passato Mario Monti perché ci è sembrato che l'azione di governo avesse un po' esaurito la sua spinta iniziale verso marzo-aprile, tutta la vicenda dell'articolo 18, la riforma del mercato del lavoro che si è poi incagliata, gli esodati e quant'altro. Però una cosa va detta, cioè, se l'Italia versa in queste condizioni di debito pubblico, di deficit, di evasione fiscale, di spesa pubblica e sprechi, beh, questo non lo si può attribuire al governo tecnico di Mario Monti. Abbiamo avuto governi politici fino al novembre del 2011, quindi un po' di correttezza anche nella memoria storica, e soprattutto alcuni politici al governo fino all'altro ieri facciano il piacere di stare ogni tanto zitti. Le notizie in breve. Visto che parlavamo del ministro Fornero, della riforma, oggi è arrivata una dichiarazione del ministro Fornero sugli esodati. Noi spesso abbiamo detto molto modestamente che è vero, sarà pure vero che è difficile fare il calcolo di quanti siano gli esodati, il governo ne ha stimati 65.000 su cui c'è la copertura finanziaria, ma sembrerebbero altri 65.000. Tutto vero, però abbiamo detto il ministro Fornero non può dire: attenzione, i calcoli sono difficili, provate a farli voi, perché se fai una riforma delle pensioni devi anche immaginare cosa succede a quelle persone che hanno accettato lo scivolo per uscire dall'azienda, sapendo che nell'arco del tempo che quello scivolo copriva, 12 mesi, 13 mesi, sarebbero poi andati in pensione e adesso si ritrovano con uno o due anni di terra di nessuno, di deserto, senza lo scivolo, senza lo stipendio e senza la pensione. Ecco, dovevate pensarci prima. Devo dire che oggi il ministro ha ammesso che il governo si è mosso e che ha ammesso anche la sua responsabilità ha ammesso che c'è stato un ritardo nell'attenzione dedicata ai più deboli. Ammetto, diciamo, una qualche responsabilità, forse più di quanto non abbiamo fatto in questi 5 mesi, una maggiore attenzione a quelli che sono in maggiore sofferenza nel nostro paese. Perché il paese ha creduto che fosse necessario il rigore per superare la crisi, ha sperato che questo rigore fosse in un qualche modo compensato da segni di visibilità, di vitalità economica, di crescita visibile subito, e questa non l'ha avuta, e ha sperato che ci fosse una attenzione anche ai segmenti più deboli. Ecco, forse sotto questo profilo siamo in ritardo. Un applauso, perché quando il ministro ammette che c'è anche una sua responsabilità e che c'è stato un ritardo nell'attenzione ai più deboli, beh, merita il nostro applauso. Allora, vedo un paio di messaggi. Vabbè, lei stia zitto, comunista miliardario, vabbè. Ora si gode i tecnici dopo aver cacciato il cattivone di Arco. No, guardi, non è che possiamo ogni volta ripetere questa polemica. Il governo Berlusconi è andato in crisi quando non ha avuto la maggioranza in Parlamento, ve lo ricordate? Gli 8 voti mancanti, gli 8 traditori, non c'entra niente né questo programma né Radio 24. Certo, c'era una pressione totale dei mercati, lo spread era a 540 e c'era un problema enorme di incomunicabilità tra il Presidente del Consiglio Berlusconi e il suo Ministro dell'Economia Giulio Tremonti, questo lo ricordiamo, vero? Ecco, allora, se vogliamo trovare responsabilità, è mancata la maggioranza politica in Parlamento al governo, dopodiché la credibilità del governo con il Ministro dell'Economia e il Presidente del Consiglio che continuavano a litigare, a non parlarsi, era pari a 0 in Europa. Questo abbiamo capito. Ricorderete anche che lo spread spagnolo era più basso di quello italiano. Adesso, con tutto che è 4,30, lo spread è altissimo, perlomeno la Spagna viene valutata più a rischio dell'Italia. Fino a novembre era l'opposto, l'Italia era considerata più a rischio della Spagna. Quanto alla Germania, dite, ma le va bene il rigore di Monti e non quello della Merkel? No, abbiamo detto 1000 volte che è giusto avere l'austerità e il rigore per mettere a posto i conti pubblici. Occorre però, assieme ai tagli che ancora non abbiamo visto sulla spesa pubblica e alle tasse, quelle sì che abbiamo visto, e all'aumento dell'età pensionabile e a una mini patrimoniale come è di fatto l'IMU, occorre anche in Europa predisporre qualche politica per la crescita. Se no l'Europa si sta avvitando, la gente non consuma, i negozi vendono meno, a quel punto aumentano i licenziamenti, entri in una spirale, se non ricordo male, ripeto, era la seconda, il modello della crisi del capitalismo secondo Marx, cioè ti vai ad avvitare, devi trovare delle politiche che permettano di tornare a spendere e comunque ad aumentare l'occupazione. Tanto è la stessa cosa, se uno è occupato tende a spendere qualcosa, se è disoccupato no. E a questo proposito vedremo se potrà arrivare una boccata di ossigeno dall'accordo con la Svizzera, perché la caccia al tesoro è iniziata. Ricorderete le puntate precedenti, Germania e Gran Bretagna, ma la Germania è quella più importante perché nell'euro, avevano fatto un accordo con la Svizzera per farsi dare dei soldi e evitare quindi di andare a fare i controlli fiscali e tutta la partita di giro che era nata anche con floppy disk o dischetti, per meglio dire, pieni di nomi di correntisti tedeschi nelle banche svizzere. L'Unione Europea aveva bloccato qualunque altro accordo bilaterale dicendo serve prima un accordo europeo. A questo punto invece la cosa è stata sbloccata e quindi oltre a Germania, Inghilterra ed Austria ci sono altri stati, la Grecia vuole avviare trattative e anche la Grecia ne ha ben donde vista l'evasione fiscale che c'è in quel paese. Allora andiamo in Svizzera, perché è iniziata il primo dialogo per affrontare vari temi, ma il primo è proprio questo, no? Un accordo, una tantum per evitare poi di cercare quali italiani abbiano il conto corrente in Svizzera. Mm-hmm. Sono stimati tra i 150 miliardi di euro i capitali italiani nascosti in Svizzera, perché insomma la maggior parte non sono arrivati lì proprio con un bonifico bancario, eh? E se l'Italia sottoscrivesse un accordo sul modello di quello austriaco, che ha detto il 25% una tantum, una volta sola, sul patrimonio, e il 25% ogni anno sugli interessi maturati, in cambio viene salvaguardato l'anonimato. E la Svizzera ci tiene molto a mantenere l'anonimato dei suoi correntisti, basa su quello parte della sua economia. Ebbene, noi intascheremo subito 37 miliardi di euro. E poi un flusso di 500-600 milioni di euro l'anno. Oh, 37 miliardi di euro subito sono due manovre finanziarie, eh? Potrebbero trovare sì delle risorse per sostanzialmente fare qualche opera in più e scaricare un po' e ridurre un po' le tasse in busta paga, quindi le tasse per il lavoratore e anche per il suo dipendente. Alcuni dicono: ma ormai i capitali sono volati tutti via. Non lo so. Chiediamolo a chi li conosce tutti. Lino Terlizzi, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. No, non voglio dire che tu... Non conosco purtroppo tutti i capitali, però posso fare qualche valutazione. Ecco, allora, intanto l'accordo riguarda anche i frontalieri, per cui ho visto... No, ma che... tutto parte da lì, perché il contenzioso fiscale tra Italia e Svizzera accumulato in questi ultimi anni è abbastanza poderoso. Allora, l'anello da cui si sta sbloccando, e la notizia di oggi, è quello dei ristorni per i frontalieri, cioè il Canton Ticino aveva bloccato sin qui una metà dei ristorni dovuti all'Italia e segnatamente ai comuni di frontiera originari per i frontalieri, che ogni giorno varcano appunto la frontiera e vengono a lavorare in Canton Ticino. Si tratta di una cifra di 28 milioni di franchi, circa 20-22 milioni di euro, e quello che è stato detto oggi è che questo blocco viene levato, quindi saranno versati questi soldi. Allora da lì poi c'è stata subito l'altra notizia, cioè che ci sarà presto un incontro tra la Presidente della Confederazione Elvetica Evelyn Wittmann-Schlumpfe e il Premier italiano Mario Monti. Allora a questo punto si riapre non soltanto la questione dei ristori dei frontalieri, ma anche gli altri capitoli, l'accordo di doppia imposizione, la revisione di questo e anche, appunto, come tu citavi, eventualmente un accordo basato sull'imposta liberatoria in cambio del mantenimento del segreto bancario, come è stato fatto con Gran Bretagna, Germania, Austria, sin qui, e si tratta anche con la Grecia. Con la Grecia, ecco. Tutto da vedere. Ecco, non so se le cifre saranno quelle citate, perché saranno comunque considerevoli, però parecchi miliardi di euro nel caso per le casse dell'erario italiano. Però ecco, bisogna considerare che probabilmente se si inizia una trattativa di questo tipo, le aliquote per il caso italiano non saranno forse quelle tedesche o austriache. Perché? Perché bisogna ricordare che sono stati fatti degli scudi fiscali negli anni scorsi con aliquote molto inferiori, e poi la tassazione del risparmio in Italia non ha le stesse aliquote di quelle tedesche. Ecco, cos'è che resta ad ostacolo? Cioè, prima l'abbiamo spiegato, l'Unione Europea aveva detto: attenzione, non accetteremo più accordi bilaterali come quello della Germania, perché vogliamo che ci sia prima un accordo quadro, cioè ci deve essere prima via libera di Bruxelles. Lo spiego in maniera un po' semplicistica. È giusto. Adesso però che via libera di Bruxelles c'è stato, infatti l'Austria è andata avanti, cos'è che secondo te blocca? Tanto la Svizzera dovrà per forza accettare anche un accordo con l'Italia, perché l'hai fatto con la Germania, l'hai fatto con l'Austria, a rischio, se no c'è l'anonimato, che è la principale virtù, se di virtù vogliamo parlare, del segreto bancario svizzero. Secondo te cos'è che blocca le trattative o l'avvio delle trattative vere e proprie? Ma credo su questo punto specifico, non sull'accordo sulla revisione della doppia imposizione, perché lì si tratta di una maggiore collaborazione in ambito fiscale, come già fissato dalla Svizzera con altri paesi, quello credo che non ci siano grandi problemi, penso. Ma invece sul cosiddetto piano Rubik, che è appunto questa imposta liberatoria in cambio del mantenimento del segreto bancario, lì credo che la Svizzera non abbia molti dubbi a questo punto. C'è un'opposizione interna che vede questo come una concessione troppo ampia agli altri paesi, ma direi la maggioranza maggioranza in Svizzera, anche delle banche, è per una trattativa in questi termini, che ha un costo per le banche svizzere, ma sono disposte ad accettarlo a questo punto, come hanno fatto con Germania, Gran Bretagna e Austria. Ma credo che sul versante italiano sia un po' da decidere che cosa si vuole fare, cioè trovare una soluzione che sì, consenta questo, ma al tempo stesso non incoraggi poi in futuro nuovamente l'evasione fiscale. Lino, tu oggi dove ti trovi? A Lugano, a Ginevra, dove sei? A Lugano. A Lugano. Ecco, una cosa ti volevo chiedere, il fatto che le banche svizzere accettino tra virgolette tranquillamente di pagare così tanto, non è che poi lo caricheranno ai correntisti, cioè per carità non è che stiamo qua in pena per chi ha portato fuori i soldi legalmente in Svizzera dall'Italia, però era solo una curiosità mia. No, se lo facessero sarebbe un autogol, perché i correntisti se ne andrebbero, quindi non penso che sarà questo. E l'idea è che se ne siano già andati? No, perché se garantiscono l'anonimato non dovrebbe, chiedo. Potrebbe, qualcheduno potrebbe pensarci, però diciamo bisogna anche vedere se gli conviene andare da un'altra parte, dove esattamente, quanti migliaia di chilometri dalla sua sede naturale e così via. Quindi è un gioco aperto, qualche costo lo dovranno sopportare le banche in termini economici certamente, però in quel caso è un conto che hanno fatto e dicono va bene, paghiamo questo costo, non ricaricheremo, però intanto siamo più tranquille sulle nostre norme che rimangono e comunque ci sarà un'imposizione fiscale per i paesi che fanno questo accordo con noi. Quindi è un po', loro dicono, un win-win, vince da una parte o vince dall'altra, o perdi da una parte qualcosa, perdi da una comunque parte 37 miliardi, che lo studio pubblicato sul Sole 24 Ore da Vittorio D'Arold, che ha preso l'esempio dell'accordo fatto con l'Austria e ha detto, beh, se anche noi facessimo il 25% sul patrimonio, una tantum, il 25% sugli interessi maturati, arriveremo a 37 miliardi subito e un flusso di 500-600 milioni l'anno. Tu mi sembra propendi per una cifra un po' più bassa? Sarà una cifra considerevole, certamente, ma probabilmente se si farà l'accordo un po' più bassa, perché le aliquote non so se saranno quelle. Saranno forse un po' inferiori, ripeto, c'è da considerare che quando si fecero gli scudi fiscali l'Italia chiese 5, 6, 7%. Ora non saranno così basse, però non so se si potranno neanche elevare i livelli. Chi fu il ministro Tremonti, sì, giusto. Fu il ministro Tremonti. No, perché l'ho visto in un'intervista 2 settimane fa discettare sugli errori del governo Monti come se lui fosse stato da un'altra parte. No, 5% per far rientrare 100 miliardi di evasione in Italia, col senno di poi si poteva capire anche che, visto che sembra Tremonti avere una percezione così netta di come la crisi sta evolvendo, evidentemente non ce l'aveva nel 2008, sennò avresti dovuto chiedere il 10% almeno, no? Visto che adesso la Svizzera è disponibile a pagare il 25% all'Austria, noi abbiamo chiesto il 5% ai grandi evasori che saranno portati milioni e miliardi all'estero. Voglio dire, o sono un po' mona gli svizzeri, ma non mi sembra, su questi temi, oppure se lo siamo stati noi allora facendo pagare solo il 5% per rimpatriare capitali, quando negli altri paesi, Germania, Gran Bretagna, si arriva al 35%. Diciamo che gli scudi fiscali ebbero un certo successo, però le cifre e le persone ho capito, sono quelle col che col 5% ero capace. Vabbè. Dai, andiamo avanti, perché ce l'ho ancora qui l'intervista di Tremonti del Marziano a Roma, che arriva e dice ma no, vabbè, sai va com'è. Bene. Ma ti posso dire che Tremonti non è molto amato neanche in Svizzera, se può consolare. No, io non ho detto che non sia amato qui, non sarà amato in Svizzera, magari qui è amatissimo, dico solo che per correttezza un politico che ha fatto ministro dell'economia in 2 governi, anzi 3, dovrebbe ricordare cosa ha fatto quando c'era lui. Grazie Nino Terlizzi, in collegamento appunto da Lugano. Vedremo, però per ora l'accordo è sui frontalieri, ma appunto a breve confermato l'incontro tra Mario Monti e il presidente della Confederazione Svizzera Evelyn Widmer-Schlumpf. 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo subito col commento di borsa, perché oggi la mazzata è stata pesante su Mediaset, meno 11,36% nel finale. Monte dei Paschi poi ha recuperato, perché è sospeso per eccesso di rialzo, ma su questo avremo un approfondimento apposito. Ha perso comunque il 7%, è arrivato a perdere più del 10%. Popolare di Milano meno 5,12%, Unicredito meno 4,60%, Mediobanca meno 4,5%. Popolare Emilia Romagna meno 4, male anche Finmeccanica meno 4,40, Mediolanum meno 3,90 e Ansaldo STS meno 3,30%. Intesa San Paolo fa un po' meglio della media, cioè meno 2,85, e anche Banco Popolare perde il 2,80 come UbiBanca, il 2,5 del calo di Generali. C'è qualche titolo in positivo, l'indice complessivamente ha perso l'1,20%, Parigi ha perso lo 0,20%, Francoforte in positivo di 0,5 punto percentuale, Londra meno 0,40%. Perdeva un punto percentuale in più mezz'ora fa a Milano, cioè, per cui ha recuperato nel finale. L'automatica meno 5,40, Tenaris, scusatemi, l'automatica più 5,40, Tenaris più 3%, A2A più 2, Pirelli più 1,80, Campari più 1% e anche Fiat più 0,90 come Atlantia e Buzzi Unicem. Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora Paolo, Mediaset, qui non ci sono scandali, c'è una trimestrale che il mercato proprio non ha digerito. Sì, esattamente, su Mediaset sono proprio i dati trimestrali annunciati ieri a borsa chiusa che non sono piaciuti al mercato, che hanno visto un utile netto calato dell'85% nei primi tre mesi del 2012 a poco sopra i 10 milioni di euro. Inoltre quello che è giudicato preoccupante dagli analisti è il calo della raccolta pubblicitaria, che è sceso del 10%, e non si notano inversioni di tendenza secondo quanto comunicato dal management. Quindi questo ovviamente non è piaciuto al mercato, che ha colpito i titoli fin dall'avvio e sono stati in coda al listino per tutta la seduta, chiudendo appunto in calo di oltre l'11%. Ancora sì, insomma, trimestrale bocciata dal mercato, c'entra da dire. Lo spread è tornato a 430 punti, poi adesso è un po' sceso. Comunque questo ha penalizzato tutte le banche. Lasciamo fuori Monte dei Paschi, ma insomma, quando lo spread aumenta è chiaro che le banche che sono piene di titoli di Stato italiane ne ottengono una penalizzazione. Sì, esattamente, infatti le banche oggi sono state colpite dalle vendite. Inoltre diciamo che questo non ha riguardato solo l'Italia, ma in generale in tutta Europa, soprattutto nei paesi cosiddetti periferici. Le tensioni sull'eurozona, i timori e su una possibile uscita della Grecia dall'euro hanno colpito soprattutto appunto il settore bancario, che a livello continentale è stato il peggiore, ha perso quasi 2 punti percentuali. A Milano è andata male, le hai ricordato tu, i titoli BPM, Unicredit, anche Mediobanca, che ha annunciato i conti trimestrali proprio a borsa ancora aperta. Il Monte dei Paschi di Siena ne parlerete dopo. Comunque ovviamente c'è la questione delle perquisizioni relative alle indagini e per ostacolo alle attività di vigilanza e manipolazione del mercato relative all'acquisizione di Anton Veneta, che hanno pesato sul titolo fin da quando appunto queste notizie sono uscite nella mattinata. Monte dei Paschi è stata la peggiore tra le banche, ha perso quasi il 7%. Ancora sui titoli, tra l'altro è arrivata qualche notizia dalla Spagna su Bankia, perché lì stanno per nazionalizzare la terza banca del paese, cioè come se noi nazionalizzassimo, che ne so, il Banco Popolare o il Monte dei Paschi, oddio, sì. Monte dei Paschi. Forse meglio usare un altro esempio oggi, perché siamo avanti così, vabbè. Ma insomma, sì, l'ufficializzazione sta arrivando in questi momenti, appunto, quindi il management della banca ha chiesto al governo di prendere una quota nel capitale, perché appunto è stata colpita molto dalla crisi immobiliare, evidentemente non riesce più ad andare avanti da sola, ha bisogno dei sostegni pubblici. Altri titoli, Telecom e l'automatica. Andiamo anche su chi ha guadagnato. L'automatica al 5,40%, Telecom invece non ha guadagnato, ha perso il 2%, però trimestrale e futuro di T-Media all'orizzonte. Sì, per quanto riguarda appunto Telecom Italia siamo in attesa dell'esito del CDA, che è in corso in queste ore, sia per quanto riguarda i conti trimestrali sia appunto per le opzioni strategiche su Telecom Italia Media e la 7. Ieri il titolo era stato il migliore del FTSE MIB, è stato uno dei pochi a guadagnare terreno. Oggi ha perso il 2%, comunque diciamo che alla fine ha fatto peggio del listino, ma comunque rispetto ad altri titoli ha limitato un po' i danni in attesa di notizie dal CDA. Per quanto riguarda l'automatica, appunto, il titolo è stato premiato in attesa della trimestrale che è stata pubblicata qualche minuto fa, che ha visto un utile netto raddoppiato nel primo trimestre. Inoltre il titolo sotto i riflettori per un'intervista dell'amministratore delegato Marco Sala al Financial Times, che ha spiegato le strategie di crescita del gruppo soprattutto all'estero. Gli investitori hanno premiato il titolo, che è salito del 5,4%. I migliori e peggiori, dunque, dove vedo lo spread a 4,30, ha toccato i 430 punti lo spread, poi adesso sarà detto, non è che lo sto a controllare ogni minuto, abbiate pazienza, però è arrivato a 4,30. Migliori e peggiori, Astaldi più 6,31, Sintesi più 5,66, Piaggio più 4,80, peggiore Mediaset, in assoluto è il peggior titolo oggi, a 1,45 euro, Philips meno 8,70, Meridiana meno 7,80. Un paio di risposte ai messaggi. C'è chi dice: lo spread era calato solo per intervento della BCE, dica la verità. No, l'intervento della Banca Centrale Europea è arrivato, le due tranche alle banche, volete dire, è arrivato dopo, e poi tra l'altro non calò solo lo spread italiano, ma calò soprattutto quello italiano, ma anche quello spagnolo, se vi riferite a novembre, dicembre e gennaio. E poi ce n'è un altro che non riesco più a trovare, che riguardava l'accordo con la Svizzera. Volete sapere a quanto si potrebbe arrivare? Ripeto la cifra, 37 miliardi, se noi facessimo un accordo simile a quello austriaco si calcolano 37 miliardi una tantum, e dai 500-600 milioni di interessi parziali, di tasse sugli interessi maturati ogni anno. Grazie a Paolo Paronetto. E adesso sullo spread. La piattaforma dello spread era Reuters, non Bloomberg. Inutile che continuate a contestare. Sulla piattaforma Reuters ha toccato i 430 punti. Se non lo trovate, evidentemente usate altre piattaforme e non la Reuters. Monte dei Paschi. Allora, la più grande, la più antica, soprattutto la più antica banca del mondo tuttora operante, nata infatti nel 1472, è il terzo istituto di credito italiano, al 9% del mercato, 6.200.000 clienti, capitalizza 3 miliardi di euro, ma ha perso in borsa il 66% del valore nell'ultimo anno. Allora lì la battuta, mi raccomando, è una battuta, visto che la Spagna oggi nazionalizzerà la terza banca del paese, abbiamo fatto solo una battuta per far capire quanto importante sia quello che sta avvenendo in Spagna con la nazionalizzazione di fatto di Bankia, è come se noi nazionalizzassimo il Monte dei Paschi. Detto ciò, ha chiuso l'ultimo esercizio con 4 miliardi e 7 di perdite, 4 miliardi e mezzo di svalutazione, ha debiti per 31 miliardi di euro e in portafoglio ha circa 32 miliardi di titoli pubblici italiani. Perquisiti oggi gli uffici di vari dirigenti, uffici e abitazioni, e anche dell'ex presidente Giuseppe Musseri, che attualmente è presidente dell'ABI. Musseri comunque non è indagato, tutti bloccati i computer della direzione generale del Monte dei Paschi, ha bloccato il server a cui fanno riferimento la Guardia di Finanza, e è arrivato sempre nel primo pomeriggio anche il sostituto procuratore Antonino Nastasi. Stanno acquisendo documenti all'ufficio legale del Monte dei Paschi. L'indagine riguarda l'aumento di capitale del 2008 per acquisire sostanzialmente Anton Veneta, perquisita anche la sede di Mediobanca da parte della Guardia di Finanza, sempre per operazioni poste in essere dal gruppo Monte dei Paschi, nelle quali Mediobanca ha ricoperto assieme ad altre banche un ruolo tecnico con la sua ordinaria operatività. Attenzione a non confondere, a non fare cortocircuiti tra le difficoltà finanziarie del Monte dei Paschi. La fondazione infatti è stata pesantemente, diciamo, danneggiata nelle sue risorse, nelle sue riserve dalla situazione economica della banca, e infatti Musseri se n'è andato, è arrivato Alessandro Profumo a guidare il Monte dei Paschi, con la vicenda su cui sta indagando la magistratura. Certo che, voglio dire, quando fai aumenti di capitale poi fai svalutazioni, questo danneggia il conto economico. Però, Alessandro Graziani, buonasera. Buonasera a voi. Alessandro Graziani, Sole 24 Ore. Intanto ricordiamo che cosa capitò nel 2008, quando insomma Monte dei Paschi rilevò Banca Anton Veneta. Ricorderete quella banca che già costò la poltrona a Antonio Fazio, ai furbetti del quartierino, a tutta l'operazione in cui dentro finirono svariati istituti, l'Unipol di consorte, poi la comprarono gli olandesi, la rivendettero a Monte dei Paschi, e qui arriviamo al 2008. Alessandro. Beh, arriviamo al 2008 e il Monte Paschi la comprò, perché per la precisione la comprò dagli spagnoli e Santander. Dagli spagnoli e Santander, è vero, dopo un passaggio, esatto. c'era stato un passaggio intermedio, gli olandesi l'avevano rivenduta agli spagnoli e il Monte Paschi l'aveva comprata agli spagnoli alla fine del 2007, quando ormai la crisi era iniziata, per 9 miliardi di euro, pagando un prezzo che già allora fu criticato e considerato esagerato. Eravamo nella fase finale del processo delle grandi acquisizioni in Italia, tutti compravano, l'ultima banca disponibile sul mercato era Anton Bennett e il Monte Paschi si buttò pagando in contanti 9 miliardi di euro, una cifra enorme, e costringendo la Fondazione Monte Paschi a fare un aumento di capitale 5 miliardi di euro. Quello ha messo in difficoltà da allora in poi sia la banca Monte dei Paschi che la Fondazione Monte dei Paschi. Quindi l'origine e la matrice di tutti i dolori è quella. Ecco, io invitavo a non fare un cortocircuito, nel senso che la Guardia di Finanza sta indagando con l'ipotesi di reato appunto di aggiotaggio e turbativa sulla vicenda Anton Veneta, non sul resto. Però uno potrebbe anche dire, Alessandro, vabbè, l'ha pagata 9 miliardi e a fronte di un valore patrimoniale di Anton Veneta che a quel tempo non andava oltre i 2 miliardi e 3, facendo guadagnare agli spagnoli di Santander 2 miliardi, però sono fatti, cioè ha sbagliato i calcoli, cioè perché interviene la Guardia di Finanza e diciamo e si muovono i PM? Perché lo vedremo. No, Nico, cioè l'aggiotaggio l'accusa, o perlomeno no, il presupposto indagine di oggi, perché la notizia è proprio di oggi, è di oggi. Nell'ambito dell'acquisizione una parte dell'aumento di capitale che è stato fatto è oggetto di indagine da parte della magistratura, e per questo ci sono state, come hai detto tu, anche perquisizioni a Mediobanca e a altre banche del consorzio di garanzia dell'aumento di capitale all'epoca. Questo, come hai detto tu, non riguarda ovviamente l'operatività della banca e la sicurezza dei depositanti, che non c'entra niente, riguarda un fatto del 2008 e le accuse che riguardano la ipervalutazione di quell'operazione e eventuali irregolarità nelle procedure dell'aumento di capitale che serviva a finanziare quell'operazione costosa. Allora, molti di voi citano il report di Milena Gabanelli di Rai 3, l'abbiamo visto tutti, è un programma che di solito secondo me ha sempre una grandissima capacità di investigazione giornalistica, non dico che sia la Bibbia, ma complimenti, non servono certo i miei complimenti a Milena Gabanelli, su Monte dei Paschi. Non so dirvi adesso obiettivamente se i PM si siano mossi perché hanno visto il report, sarebbe un po' triste un paese in cui i PM si muovono sulla base delle inchieste televisive e non su altri dati. Staremo a vedere. Una cosa però importante, Alessandro, quando tu dicevi prima, pur non centrando niente le due cose in senso stretto come indagini, i problemi finanziari del Monte dei Paschi nascono dall'aumento di capitale operato per acquisire Anton Veneta e dai soldi sborsati per acquisire Anton Veneta e le svalutazioni che ne sono conseguite. E adesso arriviamo anche agli altri temi di questa giornata economico-finanziaria. Abbiamo chiuso la prima ora con la vicenda Monte dei Paschi, appunto adesso bloccati, continuano ad essere bloccati i computer della direzione generale da questa mattina. In realtà la Guardia di Finanza ha infatti bloccato il server a cui fanno riferimento per acquisire i documenti anche nell'ufficio legale del Monte dei Paschi. L'indagine riguarda l'aumento di capitale del 2008, l'ha spiegata bene Alessandro Graziani. Molti di voi ci hanno detto si sono mossi dopo il programma di Rai 3 Report di domenica scorsa condotto da Milena Gabanelli. Alcuni dicono anche, lo ammette, lei è invidioso della Gabanelli, che ci sa fare molto più di lei. Sì, sono invidiosissimo di Milena Gabanelli, che saluto e ringrazio per essere in collegamento. Buonasera Milena. Buonasera. Allora, invidia non lo so, ammirazione sicuramente, nel senso che il servizio di domenica scorsa era bellissimo e fai complimenti anche ai tuoi giornalisti. Paolo Mondani, che è l'autore del pezzo, ha passato 3 mesi a Siena, quindi bravo. Ci ha dedicato insomma, ecco, abbastanza tempo. Toglici subito un dubbio, tu pensi che i PM si siano veramente mossi dopo report? Non ho la più pallida idea. Perché il servizio comunque raccontava in maniera assolutamente professionale e dettagliata quanto poi, voglio dire, in molti a bassa voce anche dicevano in questi anni, Ma devo dire anche l'ipotesi su cui si sta muovendo la magistratura, cioè che dietro l'operazione di acquisizione di Anton Venta, che per carità è assolutamente legittimo, è anche legittimo se volete pagare tanto una cosa, uno magari la paga tanto perché ritiene che ci sia un valore nascosto, però da lì è nato poi, come voi raccontavate, anche tutto il calvario del Monte dei Paschi. Il calvario del Monte dei Paschi è anche della Fondazione. È della Fondazione. Non risulta che operazioni del genere di solito vengano fatte per cassa e che la Fondazione insomma si sveni in quel modo. Ecco, tu senza essere un PM né un analista finanziario ti sarei fatto un'idea del perché però cioè voglio dire si va a fare un'operazione pagando 9 miliardi a Anton Veneta quando aveva un valore patrimoniale di 2 miliardi e 3 regalando tra virgolette facendo guadagnare al Banco Santander 2 miliardi e svenando la Fondazione, sono tutti impazziti? Noi abbiamo chiesto, Mondani ha chiesto direttamente al capo delle fondazioni bancarie italiane Guzzetti se secondo lui aveva senso quell'operazione lì. Lui ha detto che è stata un'operazione sfortunata perché poi il mondo è crollato. In realtà è vero che è crollato dopo, ma le avvisaglie c'erano già prima, nel 2007 già alcune banche erano in difficoltà, alcune banche americane. Insomma, chi è del mestiere che la crisi era in atto si sapeva, quindi dopodiché alla domanda ma lei avrebbe mai pagato quella banca quel prezzo, visto che nessun'altra banca era disponibile a fare quell'operazione, lui si è messo a ridere. Altre persone intervistate che lavoravano dentro la banca e che quindi conoscevano un po' più da dentro la questione, hanno ipotizzato che ci fossero interessi di altra natura. Allora, col massimo rispetto per il lavoro giornalistico a partire da quello di Report, però non trovi un po' strano un paese in cui ci si muove, tra virgolette, dopo le inchieste televisive o giornalistiche? Per carità, negli Stati Uniti cade un presidente per un... inchiesta giornalistica, in altri paesi abbiamo visto di mettersi ministri. Francamente non lo so, io posso dire che è successo altre volte, ma è anche vero che la macchina non si mette in moto immediatamente, magari era un'operazione che era già in corso ed è stata una coincidenza. No, perché quello che volevo, il finale della mia domanda era in sostanza questo, cioè va benissimo, ci mancherebbe l'attività giornalistica di inchiesta e quant'altro, però esistono anche dei soggetti che vengono pagati per questo. Io vorrei ricordare che c'è la Banca d'Italia, che c'è la Consob, che c'è il collegio sindacale di una banca, che ci sono i revisori, no? Non è strano che poi alla fin fine ci sia un silenzio in... Ma io penso che probabilmente l'operazione era già, cioè la storia era già all'attenzione degli organi preposti. Magari la nostra puntata è servita a dare un'accelerata. Mi chiedono anche gli ascoltatori, ti fanno i complimenti, ma chiedo basta che non voglia fondare un partito. Tanta è la fiducia ormai nella capacità della classe politica di rinnovarsi. No, prego, comunque dimmelo. Sì. Per il momento mi sto occupando di altro, vale a dire sto facendo la cosa che penso di sapere onestamente fare. Beh, Milena, non posso non chiederti però a questo punto di che cosa vi occuperete domenica? Domenica ci occuperemo dei professionisti, vale a dire commercialisti, avvocati, esperti contabili che gestiscono tanto denaro, però devono anche controllare, hanno anche una funzione di controllo, perché esiste una legge che si chiama 2-3-1 e vedremo se la rispettano o meno. Grazie e ancora complimenti veramente da collega a collega e girli a tutti i tuoi collaboratori, a Milena Gabanelli per il servizio di Report, mentre saluto Innocenzo Cipolletta che ci ha raggiunto in collegamento, buonasera. Buonasera. No, poi con lei parliamo di come si esce da questa crisi, lei è presidente di UBS Italia, dell'Università di Trento, economista, direttore generale per molti anni della Confindustria, ma non trova un po' strano Cipolletta, lei è un uomo troppo diciamo navigato di mondo e... che queste cose scoppino perché indaga Report, c'è cioè un'indagine o un'inchiesta giornalistica, cioè gli organi di vigilanza? Vale anche per Fondiere Assai, vale anche per il San Raffaele. Sì, no, io credo che innanzitutto queste inchieste siano molto importanti perché servono a far vedere, e in tutti i paesi comunque l'inchiesta aiuta diciamo gli organi di vigilanza e la magistratura. Certo, quando diciamo gli scandali escono più dalle inchieste che non dalle analisi e dalle indagini, questo preoccupa un po', però teniamo anche conto che spesso gli organismi di vigilanza intervengono preventivamente, quindi impediscono o dovrebbero impedire l'insorgere di eventi di questo genere, quindi noi non sappiamo quanti ne sono stati evitati dalla osservazione, dal controllo che hanno fatto. Sappiamo quelli che scoppiano e questi qua sappiamo che non sono stati evitati. No, è che qualcosa insomma non ha funzionato, lo dico col massimo rispetto per gli organismi di vigilanza, sia nelle vicende fondiere assai, dove la governance veramente non si può ascoltare, le consulenze prese dagli Gresti, le consulenze che l'Igresti dava a se stesso, le remunerazioni date all'amministratore legato con un bilancio chiuso con 1 miliardo di perdita, ma vale anche per il San Raffaele, e tutto questo poi ha un'implicazione sul mondo bancario. Mediobanca sta attraversando un periodo difficile anche per la sua esposizione nei confronti di Fondiere Assai, ma anche nei confronti del San Raffaele. Continua, molti ce lo chiedono, l'iniziativa di Radio 24, disperati mai, @radio24.it, continuate a scriverci, stiamo raccogliendo, stiamo cercando di dare anche un'organizzazione alle vostre centinaia di mail, e ciclicamente sia io che Oscar Giannino continueremo a leggerle, però adesso vediamo di capire, di trovare un po' di unità in una giornata che ha segnato l'ennesima spaccatura, se mi permettete, a livello europeo. C'è infatti l'Europa dei virtuosi, dei bravi, dei forti, che si chiama Germania, ha visto un nuovo record dell'export a marzo, 99 miliardi di euro esportati, il saldo commerciale, la differenza tra export e import in Germania registra un surplus di 17 miliardi e mezzo, e poi la Germania oggi ha collocato titoli di Stato a 5 anni, a 10 anni e a 30 anni, quindi BTP tedeschi a 5, 10 e 30 anni, tutti con rendimenti ai minimi storici, ossia costa pochissimo alla Germania trovare finanziatori per il suo debito. Lo 0,56% è quello che rende un BTP tedesco a 5 anni e il 2,24% lordo quello a 30 anni. E poi c'è l'Europa di chi non ha fatto i compiti nel passato e ne paga le conseguenze, a mio avviso in maniera un po' miope in alcuni casi, l'Europa fatta dalla Spagna, l'indice della Borsa di Madrid, adesso il dato definitivo, è precipitato ai livelli del 2003, ha perso il 4% quasi oggi Madrid. Il Wall Street Journal pubblica una notizia poco fa che alcuni governi europei starebbero frenando sull'assegno che l'Europa deve staccare domani da 5 miliardi e 2 alla Grecia. È la tranche per il salvataggio della Grecia, domani c'è un altro pezzetto, 5 miliardi e 2, mentre Angela Merkel vorrebbe che la Grecia restasse nell'Europa. Il nostro spread è sopra i 400 punti, 430 punti la differenza tra noi e la Germania quanto a calcolo della rischiosità sulla piattaforma Reuters, 413 su quella Bloomberg. In Spagna fra poco il governo annuncerà tra l'altro la nazionalizzazione della terza banca spagnola, Bankia, perché praticamente se no fallisce, e i mercati scommettono, danno alte possibilità che la Grecia possa uscire dall'Europa. Allora, presidente Cipolletta, come se ne esce, fermo restando il rigore, il controllo dei conti pubblici, il taglio della spesa pubblica che ancora non vediamo le forbici, soprattutto vediamo le pinzette, 4 miliardi mi sembrano un po' pochi, comunque auguri, in bocca al lupo di nuovo Enrico Bondi. C'è bisogno di una fase 2 e quindi hanno ragione i partiti a premere su Monti dopo l'esito elettorale, oppure è ancora troppo presto, tanto non passerà, la Germania si metterà di traverso e qua bisognerà andare avanti a percorrere questo Golgota senza nessun tipo di aiuto? Credo che bisogna agire su due strade, la prima in Europa e la seconda in Italia. In Europa il problema è che la Banca Centrale Europea deve sostenere i titoli dei paesi che hanno preso le misure per ridurre il disavanzo, noi siamo fra questi, perché oggi lo spread che noi paghiamo, ma anche lo spread che paga la Spagna, deriva non dal fatto che non sono state prese le misure, ma dal fatto che questi titoli sono abbandonati al mercato mentre nel mondo titoli americani, titoli spagnoli, titoli giapponesi, titoli inglesi sono difesi dalle loro banche, e questo genera una instabilità che dovrebbe essere sanata dalla BCE. Sarà difficile, ma questo il governo italiano lo deve chiedere. Cioè la Banca Centrale Europea deve garantire, diciamo, deve comprare titoli, tornare a comprare titoli. Federal Reserve. Mm-hmm. Non è possibile che in un mondo dove i mercati sono integrati c'è una banca centrale che compra i suoi titoli e una banca centrale che non li compra. Questo è sbagliato, qualunque cosa si dica. O sbagliano gli Stati Uniti d'America o sbagliamo noi. Insieme non possono andare due comportamenti diversi. Questo è la palissiano. Quindi questo bisognerebbe dire, anche se mi rendo conto che ci sono ideologismi tali che lo bloccano. Poi però c'è anche la possibilità di agire in Italia, perché io non parlo di fase 2 o di fase 3 o di fase 1, ma sicuramente quando si tagliano i disavanzi pubblici c'è anche lo spazio per fare attività di sostegno alla domanda interna. Allora, il primo attività di sostegno alla domanda interna la si fa con una politica fiscale che sposti il reddito da chi ha molto a chi ha poco. Questa è una cosa semplice da capire, credo. Bisogna tassare di più chi ha reddito e dare più soldi a chi non ne ha, così si ferma la caduta dei consumi. Questa strada la si può perseguire in Italia spostando anche la tassazione dai redditi delle persone alle cose. In primo luogo, meglio ridurre l'IRPEF e aumentare l'IVA, o meglio ancora ridurre l'IRPEF per i meno abbienti e aumentare l'IMU, la tassa per la casa, in modo che venga tassato. Sì, ma l'IMU la pagano anche i meno abbienti, cioè l'IMU delle volte è l'unico risparmio cipolletta. Guardi, questo è un falso concorso. Se l'IMU è pagata ai meno abbienti, ci sono i sistemi per non fargliela pagare per i meno abbienti, ma veramente i meno abbienti. Però se io riduco l'IRPEF sui meno abbienti, questi hanno i soldi per pagarsi l'IMU. Ma ricordiamoci pure che l'IMU è pagata sulla casa, cioè da tutti coloro che evadono ma hanno case. Quindi è uno strumento di giustizia sociale ed è uno strumento che è usato in tutti i paesi. Non esiste paese al mondo civile dove non si pagano le tasse locali sulla base della casa. In questa maniera, se noi spostassimo dall'IRPEF all'IMU, io non sto dicendo di aumentare la pressione fiscale, sto dicendo di spostarla, chi avrebbe una riduzione di IRPEF non avrebbe nessun danno da pagare l'IMU, e questo genererebbe risorse per spendere per consumi. Questa è una, diciamo, operazione che anche la Germania ha fatto. La Germania ha aumentato l'IVA e ha ridotto l'IRPEF, che è una sorta di svalutazione nascosta che gli è servita per rendere più competitivi. Ecco, nelle sue ricette mi manca, insomma, nei suoi consigli, ho capito benissimo il fronte tassazione, mi mancano due aspetti però. Lei non cita il taglio della spesa pubblica, enti locali, regioni, Stato centrale, come elemento per trovare risorse per alleggerire la pressione fiscale su chi le tasse le paga, quindi lavoratori dipendenti e anche forse pensionati. E poi si può anche fare, però il taglio della spesa pubblica è comunque un taglio dei consumi, di domanda interna. Beh, insomma, tutta dipende, se sono sprechi, no, Cipolletta? Ma gli sprechi sono spesa. Vabbè, allora... Se io ho 10 uccelli di troppo in un ufficio, posso benissimo dire che li licenzo tutti e 10, va benissimo, perché ho ridotto gli sprechi, ho ridotto anche 10 stipendi. Su questo non allora non la tocchiamo più, siccome anche lo spreco crea ricchezza. Lei mi ha chiesto una domanda per far crescere l'economia, non mi ha chiesto qualcosa per razionalizzare la finanza pubblica. Per razionare la finanza pubblica sono d'accordo, vanno tagliati gli sprechi, va introdotto qualsiasi cosa, ma io vedo una maniera molto più rapida e molto più efficace per dare reddito a chi ne ha di meno, è quella di spostare la tassazione. Mario Monti ieri, poi sono un po' corretto, ma insomma è la seconda volta che Monti ricorda, prima dopo l'intervista di Giulio Tremonti al Corriere della Sera, che ha detto insomma chi adesso pontifica dovrebbe ricordarsi cosa faceva fino a novembre, e ieri poi un po' ha corretto dicendo attenzione, se siamo in questa situazione di crisi economica in Italia non è certo colpa del nostro governo. Ma ha senso preoccuparsi di espandere la capacità produttiva di un'economia e intanto con le mani stesse dello Stato eliminare una parte di capacità produttiva che si trova presso piccole imprese, il più delle volte produttive, ma alle quali facciamo mancare la liquidità e quindi le facciamo spesso chiudere? per non dire di altre conseguenze umane che a volte si verificano e che naturalmente dovrebbero fare riflettere soprattutto chi ha portato un'economia come quella italiana a questo stadio, non chi cerca di farla uscire da questo stadio. Ma io in questo caso sono assolutamente d'accordo con Mario Monti, dare la colpa di tutti i mali del paese a un governo che è arrivato a novembre è assurdo e dovrebbero star zitti i politici che sentiamo parlare, erano al governo, erano sottosegretari. Però, Presidente Cipolletta, per concludere, secondo lei dietro la pressione di PD e PDL si nasconde una cosa giusta, cioè i partiti che devono rispondere agli elettori chiedono al governo di fare di più, o si nasconde una cosa sbagliata, cioè è il... No, io credo che si nasconda la cosa giusta, cioè bisogna fare delle politiche per la crescita. Io ho indicato quella della redistribuzione fiscale, ma ci sono anche altre politiche. Io suggerisco una politica di normativa, per esempio quella di obbligare, come in moltissimi paesi, tutti i proprietari di immobili a abbellire, a rifare le facciate, a rimetterle in sicurezza, a mettere gli immobili in sicurezza anche energetica, per il risparmio energetico. Un'operazione di questo genere, fatta, scadenzata in vari tempi su tutta quanta l'Italia, darebbe una spinta forte alla domanda interna, consentirebbe di creare nuove imprese, nuova occupazione, nuove professionalità. Verrebbero certo spesi dai proprietari degli immobili, ma sono spese che fanno su se stessi, cioè accrescono il valore del proprio patrimonio, e questa è una strada che è perseguita da molti paesi. Avremo città più decorose, più belle, più sicure, e avremo una crescita economica, cioè esistono sistemi per far crescere la domanda interna anche senza usare la finanza pubblica. Grazie, grazie anche a Innocenzo Cipolletta. Allora, inutile che scrivete, io invito ospiti su cui spesso non sono d'accordo, però è giusto sentire anche altre proposte, e continuerà il nostro viaggio nelle proposte di chi vuole, insomma, sostanzialmente dire ci sono altri strumenti, ci sono delle possibilità per passare a quella che noi chiamiamo fase 2. Per ora è tutto, domani Focus Economia in diretta dal Salone del Libro di Torino, e lo sarà anche il giorno dopo, anche venerdì. Intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.